Julian, insomma non saprei, il mio francese è veramente spaventoso, e ascoltiamoci un pezzo. Il pezzo si titolava Queste facce ed è Griselda, oddio, non sono capace di pronunciarlo, Masalagiche, Griselda Masalagiche, difficilissimo, adesso effettivamente considerato che il nome di una band potevano indubbiamente, cioè di una band, di una one man band, poteva decisamente chiamarsi in modo più semplice, ma forse il suo nome davvero. Comunque dal comunicato stampa, che appunto è un pezzo che si chiama Queste facce ed è del nuovo disco di Griselda Masalagiche, chiamato La struttura del vuoto. Romano, suona e scrive canzoni sin dalla tenera età e si ispira al suo girovagare per il mondo. Dopo il soggiorno in Germania, a Zurigo, conosce Lapo Bosket della Skunk Block Records, con la quale debutta nel 2012. Certo che devo dire che, adesso ringrazio di nuovo Francesca Grispello della Simpress 44, che ci manda inesorabilmente sempre nuovi pezzi e musica abbastanza coxica da poter trasmettere. Ma devo dire che tutta questa gente che ha un nome da donna e poi sono maschi, o viceversa, perché c'è scritto conosce Lapo Boschi, con la quale debutta nel 2012 con I Demoni nel Taschino. Trasferitosi in California, partecipa a diversi progetti losangelini, sia studio che live, Historian Mother of Mars Congo Red Diaz Vintage Fiction. Nel 2017 Skunk Block pubblica Memoria del nervo ottico, 2 anni dopo la struttura del vuoto. Griselda si dedica anche alla scrittura con un altro pseudonimo, ecco, infatti immaginavo che Griselda non fosse il suo nome da romano, da sciocciaro romano, un altro pseudonimo, pubblica una raccolta di racconti per i tipi di Meridiano Vero. È un disco interessante, indubbiamente ne trovate qualche canzone su Bad Camp, si intitola La struttura del vuoto ed è stato appunto registrato, se non sbaglio, interamente a Los Angeles, in California. Non che si senta musicalmente, ma magari anche sì, in realtà la mia ignoranza musicale non mi permette di poter giudicare, ma il pezzo mi è sembrato, queste facce mi è sembrato abbastanza attuale per la politica, o forse la non politica che ci passa davanti agli occhi, se, per non dire davanti agli schermi, in questi giorni. Arte contemporanea. Mi sto facendo una preview della mostra di Julien Charrière e sono davanti a un video di immagini meravigliose, devo dire. Mare, immagini subacquee, mare, cioè mare visto dalla spiaggia, mare visto da sott'acqua. Devo dire che tutti questi fondali marini, malgrado nel loro interno troviamo appunto delle lattine di cose che sembrano velenosissime, eccetera, si sente la potenza della natura che tenta di sopravvivere, e devo dire che probabilmente questo è il messaggio più forte che viene da questa mostra che sto intravedendo adesso, anzi teoricamente dovrei incontrare l'artista fra non molto. La sala grande delle ciminiere ha 3 lavori che in realtà potrebbero essere visti come un'installazione unica. As We Used to Float, come una volta riuscivamo a float, come si dice, non navigare ma galleggiare, è una video installazione a canale singolo. Poi abbiamo All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere, che è il titolo della mostra, che significa tutto quello che abbiamo sempre voluto è sempre stato tutto e dappertutto, del 2018. Campana da immersione in acciaio con sistema audio stereofonico, strutture in acciaio inox, sacchi di plastica, acqua marina del Pacifico, sistema di carrucole, cavi d'acciaio, eccetera. E la terza è Pacific Fiction, che è probabilmente quella che è più visibile, con noci di cocco in sarcofagi di piombo, cornici in acciaio. Eccoci qua, ne approfitto immediatamente, è arrivato Lorenzo Balbi, curatore della mostra, nonché direttore del Mambo. E che cosa mi racconti di questa mostra? È molto potente. Ciao Stefano, buongiorno a tutti. È una mostra, l'abbiamo definita un po' sensoriale, una mostra veramente immersiva, si dice spesso, no? Questa installazione è sensazione immersiva. In questo caso è molto immersiva, caso, perché siamo veramente sott'acqua. In questo caso è immersiva in tutti i sensi, perché nel percorso di mostra, che è ovviamente anche lasciato molto all'idea del visitatore, l'artista ci induce in primis a immergersi nel suo mondo, immergersi nella sua ricerca e anche nell'elaborazione delle sue immagini, per poi fluttuare in questo spazio indefinito che sta probabilmente sott'acqua, ci viene suggerito essere in un ambiente sospeso, che è lasciato anche alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni del momento, per poi riemergere fuori dall'acqua, guardando il sole da un'alta prospettiva,

All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere. Tutto quello che avremmo voluto era tutto e dappertutto. Traduzione mia. Dicevo, la ciliegina sulla torta di questa mostra in realtà è nel foyer del Mambo, che sarebbe in realtà non il foyer principale, ma quello, diciamo, di destra, dove che si raggiunge sia attraverso il bar che andando a destra all'ingresso, dove ci sono i cubicoli per lasciare le borse. Leggo dal comunicato stampa: i visitatori hanno un primo indizio di ciò che vedranno dopo con l'installazione video realizzata da Charrière con Julius von Bismarck, In the Real World It Doesn't Happen That Perfectly, ovvero il titolo è Nel mondo reale non succede così perfettamente. Con questo lavoro gli artisti hanno tratto in inganno parte del mondo dei media, la CNN, la rete Fox News, il Daily Mail per citarne alcuni, diffondendo video di falsi attacchi terroristici nel famoso Arches National Park dello Utah. In un mondo in cui le fake news sui social influenzano pesantemente opinioni e addirittura risultati elettorali, l'opera costituisce una magistrale riflessione su finzione, realtà e verità nei media di oggi. Ed effettivamente quello che succede in questo video, da una parte, cioè sono tre schermi in cui da una parte vediamo i video che sono stati pubblicati su YouTube, e praticamente sono piccoli video di 10 minuti senza nessuna descrizione, a parte il fatto con scritto che ne so, esplosione nel parco dello Utah, dove appunto vediamo queste sculture naturali che fanno parte appunto di questo parco naturale nello Utah, che esplodono. Video cortissimi di 10-12 secondi, 20 secondi, che una volta buttati in rete con, diceva Julian, con le parole chiave giuste, nel giro di pochi giorni hanno raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Dopodiché naturalmente i telegiornali americani i video sono diventati virali, hanno girato su Facebook eccetera, i telegiornali hanno visto questa cosa, le hanno fatti vedere in televisione chiedendosi se fossero veri, se fossero falsi eccetera. Dopodiché appunto adesso c'era, se non sbaglio, Fox News che aveva anche intervistato un esperto di effetti speciali cinematografici, che analizzando il video diceva sì, vedete, questo è fatto con Photoshop o l'equivalente, un software equivalente, perché vedete che qui l'esplosione è raddoppiata eccetera eccetera. Secondo lui erano fatti frame by frame per simulare appunto questa esplosione di un parco naturale che in realtà non è successo, mentre in realtà quello che Julian Charrière e Julius von Bismarck hanno fatto è stato quello di ricostruire a mano alcuni di questi, cioè un arco, ci sono delle sorte di piramidi naturali eccetera, le hanno ricostruiti in un parco messicano e poi le hanno realmente fatti esplodere, facendo appunto questi filmati con l'iPhone leggermente mossi eccetera, e poi in alcuni di questi si sente anche 3, 2, 1, cioè si sente il countdown per fare lo scoppio. Con questo video che cosa ci hanno insegnato questo duo di artisti? Ci hanno insegnato appunto che vivendo nel mondo delle fake news, quello che succede in televisione, e questo è sempre stato così, diciamo abbiamo la realtà provata di quello che di questo, ed è proprio il fatto che appunto quello che succede in televisione non è la realtà, e malgrado la maggior parte di noi comunque ha bisogno di vedere qualcosa, di vedere il video di qualcosa o vedere qualcosa in televisione per pensare, per avere la certezza che sia successo davvero, in realtà sappiamo adesso, lo sapevamo già, ma ora ne abbiamo le prove che questo non è vero. Nel foyer del Mambo appunto abbiamo tre schermi appesi un po' in alto, che però sono visibilissimi, in cui da una parte abbiamo i video originali con anche la ripresa di tutti i commenti, di tutte le, cioè, hanno avuto milioni e milioni di commenti proprio per, e sono stati tacciati di terrorismo, no? Cioè pensavano che fosse un gruppo terrorista che avesse fatto questa operazione all'interno di questo parco naturale. Nel video di fianco abbiamo invece tutto il footage di tutte le televisioni che hanno abboccato all'amo e hanno creduto che questo fosse successo davvero, senza andare nel parco a controllare che questi monoliti naturali siano stati distrutti realmente. E nel terzo schermo abbiamo invece la CNN Live che ci ricorda appunto, e questo ci ricorda da fruitori, che quello che stiamo guardando sulla CNN, la descrizione di quello che è la loro descrizione del mondo, non è detto che sia appunto la realtà. L'angolo della menzione. Presumo che del Biografilm Festival ne abbia già parlato il nostro Stefano Migliore di Paura in Palcoscenico, ma comunque stavo dando un'occhiata al programma, di cui naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutto quanto. Stavo guardando tutti questi fantastici film che sono in programmazione dalle 9 di mattina in sale tipo Lumière, Sala Mastroianni, Lumière, Sala Scorsese, L'Arlecchino, L'Europa, Il Galliera, L'Orione, Il Jolly o anche in altre fuori sala. Oltre appunto al Biografilm Festival, è interessante vedere che ci sono anche un sacco di concerti, eventi eccetera, tra cui appunto quello di sabato, che è l'inaugurazione della mostra di Julien Charrière, All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere, che poi è seguito appunto nel palco del Biografilm Park, che sarebbe il palco del Cavaticcio, da un live DJ set di Lotus Eater, Lucien Rose, Stroboscopic Artifact and Ryu, non so come si pronuncia, R-H-Y-W, devo dire che lascia un po' perplesso anche me, Arch in Seas, e questo dalle 22. Inoltre appunto ritorniamo un attimo al programma del Biografilm Park, ci sono un po' di concerti interessanti da qui a venerdì della settimana prossima, per cui vabbè, adesso stasera c'è lo Stato Sociale, ci sono The Blue Beaters Movie Gala featuring lo Stato Sociale e Maurizio Carucci dell'ex Otago e molti altri. Poi domani appunto dicevamo Lotus Eater Live più Revived Ambient Deep DJ Set, poi domenica c'è il Fandango Night, lunedì Camillas, martedì Giardini di Miró, mercoledì De André 2.0, giovedì 13 These New Puritans e venerdì 14 Rancore. Tutto questo è sempre gratuito ed è proprio ai Giardini del Cavaticcio, dietro al Mambo. Inoltre vi volevo anche ricordare di non mancare di andare a vedere la mostra di Esther Grossi. Adesso vado a ricercarlo in tutte le mie finestre di Google. Allora, dicevamo, essenziale la mostra di Esther Grossi, l'avevamo annunciata, sta per finire, anzi finirà il 22 giugno, per cui c'è ancora un po' di tempo per andarla a vedere, e io non ci sono ancora andato, ahimè, alla Galleria Lo Spazio Testoni in via D'Azeglio 50 è in corso la personale di Esther Grossi, che è un'artista con la quale Lo Spazio Testoni collabora da diversi anni e insieme hanno condiviso un percorso che è stato scandito da passaggi importanti della sua espressività pittorica. Lo Spazio per Testoni in via D'Azeglio 50, gli orari sono da martedì a venerdì dalle 16 alle 20, sabato dalle 10.30 alle 13, dalle 16 alle 20. Inoltre abbiamo invece domenica 9 giugno, no anzi sabato, sempre domani, abbiamo anche un evento della Fondazione Golinelli, dell'Opificio Golinelli. Domani abbiamo Arte e Scienza in festa con Leonardo. a partire dalle 17. Torna al tradizionale appuntamento a Opificio Golinelli per aspettare l'estate, scrive il comunicato stampa. In occasione dei 500 anni dalla morte del grande artista e scienziato, un pomeriggio di attività per riflettere sul contributo che Leonardo ha dato alla comprensione dell'anatomia e dell'arte. Questo è un evento gratuito su prenotazione e questo è domani alle ore 17 all'Opificio Golinelli, che è in via Paolo Nanni Costa numero 14. Invece domenica abbiamo al Modo Info Shop, che pensavo fosse chiuso di domenica, evidentemente mi sbagliavo, alle ore 19 abbiamo Poesie, la presentazione di un libro di Andrea Ascolese. Introducono l'editore Giacomo Martini e lo scrittore Gianluca Morozzi. A seguire reading dell'autore accompagnato dal percussionista Max Dadda. Attore e cantautore bolognese, Andrea Ascolese pubblica nel 2015 il suo primo disco da cantautore intitolato Ti porterò. Attivo soprattutto nel mondo del teatro e nel cinema, recentemente ha interpretato il ruolo del musicista Zigarin nel film Tutto liscio, diretto da Igor Maltagliati con Maria Grazia Cucinotta e in uscita nelle sale nel 2019. È insegnante di teatro, si occupa da diversi anni di didattica collaborando con scuole, università, associazioni, eccetera eccetera eccetera, e ha inoltre collaborato come giornalista, fotografo, freelance, insomma è un altro che ha i piedi in più staffe come il sottoscritto. Questo è domenica alle ore 19 a Modo Info Shop, la nostra libreria tra le nostre librerie preferite in via Mascarella 24/B a Bologna. Così finiamo il nostro angolo della menzione e basta. On white horses let me ride away to my world of dreams so far away. Let me run to the sun, to a world my heart can understand. It's a warm and gentle wonderland far away. Stars away, where the clouds are made of candy floss. As the day is born, when the stars are gone, we'll race to meet the dawn. So when I can only see the gray of a sad and very lonely, that's when I softly sigh. On white horses, snowy white horses, let me ride away. Where the clouds are made of candy floss. The day is born, when the stars are gone, we'll race to meet the dawn. So when I can only see the gray of a sad and very lonely day, that's when I softly sigh. On white horses, snowy white horses, let me ride. Bene, e anche per questo venerdì è tutto, ci risentiamo con Fedra, mi quasi conferma lei, venerdì prossimo il 15 giugno sempre sugli schermi sulle frequenze di Radio Città Fujiko, sempre con Coxo Spaziale. Io ero Stefano W. Pasquini e ci sentiamo venerdì prossimo con naturalmente le parole del nostro mitico direttore. Ah, dimenticavo, anzi, prima di andare volevo rinnovarvi l'invito di andare su www.produzionidalbasso.com, se non sbaglio, produzionidalbasso.it, non mi ricordo, comunque il sito di Produzioni dal Basso è facilissimo da trovare. Una volta che andate dentro scrivete Radio Città Fujiko, troverete il crowdfunding per far sì che la nostra radio possa continuare a trasmettere senza aver l'imposizione di dover fare delle pubblicità di stampo neofascista. Adesso le elezioni sono passate, ma è bene comunque continuare ad aiutarci e a proteggerci, e anzi ringraziamo l'AMPI che ci ha dato un grosso contributo per appunto mantenere questa radio libera, sguaiata e democratica. Ciao. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Playing with myself again.